Focus Economia. Con Simone Spezia. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, buonasera da Simone Spezia, benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. Naturalmente buon inizio di settimana a tutti, sarete oggi con me, domani torna Sebastiano Barisoni. 349-238-6666, il numero per gli sms e per i messaggi su WhatsApp, e come sempre la diretta sulla pagina Facebook di Radio 24 e su quella di Focus Economia. Di che cosa parleremo oggi? Allora, inizieremo da un tema che fatti che sono avvenuti sostanzialmente in quello che per noi è il fine settimana, ossia l'approvazione da parte l'approvazione negli Stati Uniti della riforma fiscale voluta da Donald Trump, l'elemento che potrebbe segnare davvero questa presidenza, al di là ovviamente di tutte le polemiche, delle vicende, dei rapporti con la Russia sicuramente importanti, delle inchieste che vanno avanti, ma di certo se le borse americane hanno macinato record su record negli ultimi mesi dal momento dell'elezione di Trump a oggi, se la fiducia, una certa fiducia nell'economia prosegue, è dovuto esattamente a questo, a questa riforma fiscale che finalmente arriva al suo passo finale, che prevede soprattutto l'elemento centrale, questo forte taglio delle tasse per le imprese, che passeranno dal 35 al 20%. Ci sono anche altre questioni all'interno, alcune riguardano le famose coperture, perché non crediate che il tema delle coperture riguardi solamente i paesi europei, ma ovviamente riguarda anche gli Stati Uniti, in modo, come ovvio che sia, completamente diverso. Da questo lato c'è evidentemente qualche preoccupazione, dall'altra parte si ritiene che questo forte taglio di tasse porterà ad una crescita economica, questa è la convinzione dell'amministrazione, che sarà in grado di annullare l'effetto negativo per quanto riguarda i conti pubblici. Considerate che, secondo alcune stime, gli sgravi faranno salire il debito statunitense di almeno 1.000 miliardi nei prossimi 10 anni. Ci sono anche altre questioni controverse, ossia il fatto che all'interno di questo provvedimento è contenuto quello che è di fatto la cancellazione sostanziale di Obamacare, ossia l'eliminazione dell'obbligo per gli americani di avere un'assicurazione sanitaria. Che cosa consentiva questo? Consentiva il fatto che, dato che tutti avevano un'assicurazione sanitaria, le assicurazioni sanitarie costavano di meno anche per i poveri, e quindi questo consentiva a queste persone di avere un'assicurazione sanitaria, e questo è un elemento sicuramente controverso. Dall'altra parte appunto ci sono questi forti sgravi per le imprese, che fanno ben sperare per le imprese americane e creano anche, se volete, un regime di concorrenza più forte con altre aree del mondo, compresa l'Europa. Per restare negli Stati Uniti, ma parlando in realtà di un tema che resta globale, esattamente come i tagli di tasse in America, c'è questa operazione che è stata annunciata oggi, ossia le farmacie CVS hanno acquistato le assicurazioni Aetna per $68 miliardi, un accordo che secondo alcuni analisti è destinato a ridisegnare l'industria sanitaria americana, ma soprattutto è interessante perché ha a che fare con il famoso strapotere delle grandi aziende tecnologiche americane. Nella fattispecie ci riferiamo ad Amazon. Perché? Perché nelle scorse ore si è diffusa l'indiscrezione, è tornata in realtà a diffondersi un'indiscrezione secondo la quale Amazon sarebbe in trattativa con alcune grandi aziende del settore farmaceutico. Si è parlato di Sandoz, tanto per fare un esempio, proprio per entrare nel settore farma. Quindi che cosa sta succedendo? Sta succedendo che un'azienda, una grande azienda della tecnologia, un grande retailer come Amazon, sta progressivamente entrando in tutta una serie di settori tradizionali. Lo ricorderete, lo abbiamo raccontato, l'acquisizione di Whole Foods, ossia di una catena di supermercati da parte di Amazon, e adesso ci sarebbe l'ipotesi di ingresso nel mondo della farmaceutica. è un elemento importante perché è un'estensione, se volete, anche del potere di queste grandi corporation. Comunque la vediate, come dire, che siate dei libero mercatisti assoluti o che siate terrorizzati all'arrivo di queste corporation, è sicuramente un fatto economico assolutamente importante. E ci soffermeremo su questo per cercare anche di capire dove possono portare tutte queste strategie. Ancora i mercati, ovviamente, mercati che oggi sono positivi, più 0,86% per il FTSE MIB, più 0,88% per il FTSE All Share, in una giornata che a metà giornata in realtà le borse andavano ancora meglio, i guadagni erano superiori al punto percentuale, ma come vedete le cose vanno bene. Va bene anche l'America, Dow Jones più 0,84%, Standard & Poor's 500 che guadagna lo 0,38%, Parigi più 1,06, Francoforte più 1,28%, è una giornata appunto positiva e anche questa la commenteremo, merito anche, come si diceva, dell'approvazione della riforma fiscale di Trump. Parleremo di trasporti perché è stato firmato il rinnovo del contratto nazionale, dove ci sono degli elementi molto interessanti. Spesso abbiamo parlato dell'autotrasporto, come sapete abbiamo anche degli spazi dedicati qua a Radio 24 alle 13.45 ogni lunedì e poi il sabato c'è Container, la trasmissione più dedicata alla logistica. Però molto ne abbiamo parlato perché c'è un tema che attraversa tutto questo settore, che è quello per esempio del cosiddetto dumping sociale, ossia molto semplicemente gli autisti che arrivano e delle imprese che arrivano dall'est e prendono fette importanti di mercato. Ebbene, è stato firmato un nuovo contratto di lavoro con i sindacati e questo è un elemento da una parte, dall'altra parte sono tutte le questioni che riguardano l'autotrasporto e i suoi rapporti con il governo, nel quale è compresa anche questa questione. Infine, e non ce la faremo mancare, la vicenda di Etruria. Avete sentito qualcosa all'interno di GR24? Ne continuiamo a parlare ovviamente anche all'interno di GR perché è una questione politica. Noi andremo sulla questione un po' più puramente giudiziaria, perché tutto ruota intorno all'audizione del procuratore di Arezzo Rossi davanti alla commissione d'inchiesta sulle banche, un'audizione nella quale è stato denunciato che il procuratore Rossi non avrebbe parlato del fatto che ha aperto un nuovo filone di indagine che riguarda un falso presunto ovviamente nel prospetto informativo di un'obbligazione di Etruria del 2013, e il fatto che sarebbe indagato anche il padre, anche in questo filone di inchiesta, il padre della sottosegretaria Maria Elena Boschi, Pierluigi Boschi. Ebbene, poco fa tra l'altro il procuratore ha detto: no, guardate che alla commissione me l'hanno chiesto in un momento nel quale tutto era secretato, si erano state spente le telecamere. Quando mi è stato chiesto se Boschi era indagato, io ho annuito e quindi ho detto che Boschi era indagato. Comunque ci sono evidentemente altri elementi, altri nuovi elementi che riguardano la vicenda di Etruria e toccheremo anche questi. Le notizie in breve di oggi. Allora, l'oro in calo dello 0,5% a $1,274 l'oncia, il petrolio dell'1,2% a $57,6 al barile. Sempre in tema di tecnologia, abbiamo detto della questione di Amazon, correlata alla vicenda di Amazon, però abbiamo anche notizie che arrivano dall'Irlanda, dove Apple e l'Irlanda hanno raggiunto un accordo di principio per il pagamento delle presunte tasse non versate a Dublino. L'ha annunciato il ministro delle finanze irlandese. Apple verserà i fondi su un conto di garanzia, che fondi che saranno liberati solo nel caso nel quale la Corte europea dichiarasse valida la decisione della stessa Unione europea dell'agosto 2016, secondo la quale Apple deve $13 miliardi. L'Unione europea per conto suo ha fatto sapere che fermerà la procedura di infrazione se l'Irlanda recupera gli aiuti. Abbiamo parlato molto di Bitcoin nei giorni scorsi. Il Tesoro britannico ha annunciato norme più severe per rendere più trasparente l'impiego, e con la motivazione ufficiale di voler stroncare l'uso della moneta virtuale da parte di organizzazioni criminali o evasori fiscali. A proposito di Gran Bretagna, beh, c'è questa inchiesta realizzata dal Guardian, che è un giornale di impostazione progressista che mette sotto accusa i governi conservatori per aver imposto tagli e politiche dure per il welfare britannico. Negli ultimi 4 anni, a partire dal 2012-2013, si calcola che oltre 400.000 bambini e 300.000 ultra 65enni in più siano entrati a far parte di quello che viene definito il girone dei disperati, sono le persone sotto la soglia di povertà, i nuovi poveri. E si tratta del primo incremento significativo della povertà da un ventennio. A proposito di Gran Bretagna e di Brexit, il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk si dice su Twitter incoraggiato dopo la telefonata con il premier irlandese Leo Varadkar sull'avanzamento della questione Brexit in Irlanda. Ma il ministro irlandese per gli affari europei, Helen McEntee, dice che i progressi sono insufficienti. Perché? Perché l'Irlanda del Nord, tra le altre cose, e qua siamo invece sull'Irlanda del Nord, il governo britannico, l'Irlanda del Nord vorrebbe un allineamento alla normativa europea che si traduca di fatto in una permanenza nel mercato unico e nell'unione doganale, mentre il governo britannico non vuole. Londra, la Gran Bretagna, secondo invece il Financial Times, l'accordo sarebbe più vicino. Come vedete, c'è una discreta confusione su questo tema. Per quanto riguarda l'Italia, abbiamo le dichiarazioni del presidente della Commissione Lavoro della Camera, che come obiettivo ha, con il passaggio a Montecitorio della manovra, di portare da 4 a 8 le mensilità che spettano al lavoratore in caso di licenziamento. Una misura che negli obiettivi di Damiano, di Cesare Damiano, è lui il presidente della commissione, riguarderà le aziende sopra i 15 dipendenti. Infine, il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda rinnova l'invito al presidente pugliese Michele Emiliano a ritirare il ricorso al TAR su Ilva. Dice: apriamo un tavolo di confronto, perché non si può chiedere di aprire un confronto quando il confronto lo si sposta sui tribunali. Non è una cosa corretta, dice Calenda. Infine, notizie che arrivano dall'ANAS. Il presidente di ANAS, Gianni Vittorio Armani, dice che l'operazione di fusione per incorporazione di ANAS in FS è assolutamente fattibile entro fine anno. Ha spiegato Armani che con il via libera della Corte dei Conti al nuovo contratto di programma si avvera l'ultima condizione a nostro carico. Il contratto di programma è ora firmabile e la firma sarà nei prossimi giorni. Iniziamo dal primo tema di oggi, quindi la riforma fiscale firmata da Donald Trump. Sabato Sabato il Senato degli Stati Uniti ha dunque approvato questa vasta riforma fiscale voluta da Trump. Sono state apportate alcune modifiche, molte modifiche in realtà, un testo che è di circa 500 pagine, approvato con 51 voti a favore e 49 contrari, quindi proprio sul filo. Il taglio delle tasse, occhio alla dimensione, è da 1.500 miliardi di dollari. E deve essere armonizzato con una riforma fiscale già approvata alla Camera dei Rappresentanti a metà novembre, un passaggio che i leader repubblicani sperano di poter completare entro Natale. Secondo i democratici si tratta di una riforma che rappresenta un inaccettabile regalo alle grandi aziende e ai contribuenti più ricchi. E come già vi dicevo in apertura, secondo alcune stime gli sgravi faranno salire il debito americano di almeno 1.000 miliardi nei prossimi 10 anni. Marco Valsania, corrispondente del Sole 24 Ore da New York. Marco, ciao, buonasera. Buona giornata, buona serata a voi. Sì, perché è un buongiorno per te naturalmente. Allora Marco, direi questo, quello che si diceva in apertura è che fuori di polemiche e di problemi giudiziari che potranno arrivare sul Russiagate, se dobbiamo trovare un simbolo di questa presidenza, anche a guardare come sono andati i mercati da quando Trump è stato eletto ad oggi e i segnali di ottimismo che sono arrivati dall'economia, forse è proprio questo, esattamente la riforma fiscale era quello che tutti attendevano, no? Ma sì, è sicuramente per certi versi un sospiro di sollievo, nel senso che l'amministrazione Trump e la maggioranza repubblicana al Congresso che lo sostiene, anche se appunto lo sostiene diciamo così a corrente alterna, ma appunto non erano riusciti a ottenere un risultato legislativo, un risultato politico forte. Quindi questo è comunque il primo, anche se non è ancora diciamo nella sacca di Babbo Natale, perché devono ancora, come ricordavi, riconciliare due versioni, ma comunque il primo grande successo politico e di politica economica su un tema caro, tradizionale per i repubblicani, su cui fallire per i repubblicani è particolarmente costoso in termini politici. Detto questo, però, a questo punto, ammettendo che la riforma, come dicevi tu stesso, dovrebbe a questo punto trovare la sua quadratura del cerchio per una firma di Trump entro fine anno, ecco, si aprirà tutta una nuova fase politica di dibattito e di duro dibattito su quelle che sono le ripercussioni, l'impatto, il senso di questa riforma, e i segnali che sono già arrivati, come ricordavi, sono sicuramente quelli di un durissimo scontro. Da un lato, tanto per riassumere, i repubblicani e Trump che sostengono che questa, al di là diciamo della retorica, la più grande riforma fiscale di tutti i tempi, diciamo amata da Trump, ma comunque che questa riforma sia in grado di così dare un colpo di acceleratore alla crescita e in questo modo anche di migliorare le condizioni dei ceti medi. Sì. Dall'altra, sì, i democratici accusano invece di essere una riforma regressiva con regalie ai ceti più abbienti, sì, che non si tradurranno affatto in miglioramenti per le, certo, per le, per i redditi. Certo, Marco, sarà un po' roboante la definizione di Trump, ma che ne dà Trump di questa riforma, ma è anche abbastanza normale, perché poi quando uno approva una riforma che firma, evidentemente no, è chiaro che si faccia anche un po' di propaganda. È vero però che un calo dell'aliquota dal 35% al 20% per le aziende, beh, insomma, è una discreta dimensione. È sicuramente una discreta dimensione ed è sicuramente uno degli aspetti, diciamo, c'è l'aspetto forse centrale della riforma. Tra l'altro ricordiamo che su una riforma, diciamo, delle aliquote aziendali c'era in passato un accordo abbastanza generalizzato, bipartisan. Lo stesso Obama si era mosso per una riduzione al 25%, 25-28, insomma, invece che al 20%, ma comunque c'era generalmente un consenso. che però si è spezzato nel clima di estrema polarizzazione politica nata sotto l'amministrazione Trump. Quindi anche questa parte di sgravi fiscali alle aziende, su cui poteva essere trovato un compromesso, un accordo, è finito di diventare a sua volta un oggetto di dura polemica con i democratici, che sostengono che è sostanzialmente eccessivo anche questo, diciamo che non era il caso di arrivare al 20%. Tra l'altro ricordiamo che molte grandi imprese americane non pagano affatto il 20%, a volte pagano lo 0, il 2, il 3. Sì, poi dipende da dove si trovano, ecco. In quale stato americano si trovano. Bisognerà poi vedere se con questo sgravio, diciamo, alla fine finiranno per pagare ancora meno. Sì. E l'altro elemento, diciamo, è che comunque sgravi generalizzati fiscali in un clima comunque di ripresa lasciano aperto l'interrogativo se servano o meno a incentivare la crescita. C'è chi dice che servano comunque, c'è chi sostiene che alla fine avranno un impatto troppo marginale per pagare il costo di 1.500 miliardi, da cui la stima di un aumento del deficit di 1.000 miliardi, che a sua volta può avere un impatto non esattamente così rassicurante per l'economia. Sì, si diceva, allora, aliquota che scende al 20% o al 35% attuale, anche se, come ci ricordava Marco Valsania, le cose sono molto diverse a seconda delle aziende, probabilmente anche dello Stato, della federazione nella quale queste aziende operano. Abbiamo parlato dell'abolizione della norma che obbliga la maggior parte degli americani ad avere un'assicurazione sanitaria, di fatto un altro pezzo è lo smantellamento di Obamacare. All'interno di questo provvedimento c'è la suddivisione in 7 fasce di reddito, e la versione della Camera sono 4 fasce di reddito, Marco, se non sbaglio, no? Sì, quella è una delle cose su cui dovranno trovare un compromesso. Appunto, apparentemente può sembrare, diciamo, grossa la differenza. Alla fine nessuno teme che si vadano a arenare su questo, troveranno probabilmente una via di mezzo tra, diciamo, nella riduzione, diciamo, complessiva e semplificazione complessiva delle aliquote, magari a metà strada tra le 7 ancora previste dal Senato e le 4, diciamo, invece inserite nella versione della Camera. Il vero problema sul fronte dell'aliquota individuale sarà, diciamo così, le analisi e le verifiche sugli effetti per i ceti medio-bassi. Ricordiamo che comunque Trump, nella sua vena populista, ha promesso che questa riforma serve a far crescere l'economia e ad aiutare le aziende, a incoraggiare le aziende, ma ha anche un cuore, diciamo così, popolare e offre sgravi ai ceti medio-bassi. Ecco, la riduzione delle aliquote, così come sta concepita, è combinata con l'eliminazione dell'obbligo di polizza sanitaria, combinata con un'altra serie di eliminazioni di deduzioni sul reddito molto popolari tra i ceti medi, ecco, rimane da vedere e da dimostrare quanto davvero riuscirà ad aiutare i redditi sì. non alti. Su sì. questo c'è polemica. In termini, è l'ultima domanda che ti faccio, Marco, in termini di ipotesi di rientro di capitali, inteso come rientro di investimenti negli Stati Uniti, c'è qualche stima, il più possibile oggettiva, insomma, non darci quella dal lato repubblicano, perché immaginiamo che sia trionfale, né quella dal lato democratico, che immaginiamo che sia intorno allo zero, ce n'è qualcuno un po' più attendibile? È un po' uno degli interrogativi, delle incognite che si pongono. Gli economisti, diciamo così, indipendenti, credono che potrebbe esserci un significativo rientro di capitali, perché comunque c'è una tantum vantaggiosa che consente di rimpatriare i profitti accumulati, e poi per il futuro invece c'è un passaggio, poi una tassazione più territoriale, quindi più agevole, diciamo, per i profitti futuri. Ecco, questo quanto, diciamo, il livello di questo rimpatrio però è difficile ancora da stimare, né aziende hanno offerto indicazioni in questo senso. Forse l'elemento potrebbe però essere significativo, ricordiamo che le aziende americane hanno migliaia di miliardi di profitti parcheggiati all'estero. Il problema vero sarà se questo si tradurrà in investimenti o in, invece in operazioni diciamo di altra natura, cioè finanziaria, sì. Vale a dire buyback, vale a dire vale dividendi, a dire dividendi che quindi diciamo così da un punto di vista di crescita economica e così di lotta se vuoi alla sperequazione o di miglioramento complessivo del benessere sociale hanno un impatto molto molto molto inferiore. Il timore è questo, che in realtà le aziende americane già abbiano molti capitali, molta liquidità a disposizione e quindi anche diciamo anche facendone, rimpatriandone altri, non è chiaro che vadano a tradursi davvero in investimenti produttivi e non invece in manovre diciamo così di alta finanza, in manovre di borsa. Vedremo cosa succederà, vedremo questa riforma fiscale nella sua applicazione pratica, poi che cosa ci racconterà e quali saranno gli effetti sull'economia americana. Intanto grazie a Marco Valsania, corrispondente del Sole 24 Ore da New York, per questo aggiornamento, questo racconto e anche averci chiarito quali sono i dubbi che circondano questa riforma. Ci fermiamo, andiamo a sentire il meteo, ci ritroviamo subito dopo, parliamo di industria farmaceutica americana, ma non solo di quella, in realtà, come si diceva in apertura, alla fine andiamo a parlare di Amazon, a tra poco. Focus Economia. Ed eccoci di nuovo, 349-238-6666 per sms e messaggi su WhatsApp. Non lo so, lo dico all'ascoltatore, non so se Di Maio durante il viaggio negli Stati Uniti, quando ha detto che il suo modello fiscale per l'Italia era la riforma fiscale americana, intendesse quella di Trump. Immagino di sì. Visto che lo chiede. Allora, restiamo negli Stati Uniti. La notizia e lo spunto dal quale partiamo è questo: il fatto che le farmacie CVS hanno acquistato le assicurazioni Aetna per 68 miliardi di dollari. Un accordo che secondo alcuni è destinato a ridisegnare l'industria sanitaria americana. L'idea è costruire una piattaforma sanitaria sui clienti. Piattaforma sanitaria costruita sui clienti. Però, in realtà, sullo sfondo c'è altro, secondo alcuni. C'è lo spettro di Amazon. Amazon che nelle scorse ore, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe avuto una serie di contatti con aziende farmaceutiche importanti, tra cui, come si diceva, anche la Sandoz, con una serie di colloqui per pensare a come entrare anche in questo mondo, anche nel mondo della farmaceutica. Vi ricordate, l'avevamo raccontato, che Amazon alla fine dell'estate aveva acquistato per poco meno di 14 miliardi di dollari la catena di grande distribuzione Whole Foods. E avevamo raccontato successivamente anche dell'accordo che Walmart, catena di distribuzione invece fisica, aveva raggiunto con Google. L'impressione è un po' che delle battaglie per la conquista di un territorio che possiamo definire malamente virtuale, lo definiamo malamente virtuale perché non lo è, perché il mondo digitale è quello nel quale viviamo tutti noi e quindi definiamolo così, digitale, si stia trasferendo nel mondo reale, non digitale, nella distribuzione classica e nell'industria classica. E che quindi, che lo temiate o che vi faccia piacere, il potere di queste grandi aziende come Amazon si stia estendendo progressivamente, con apparente inarrestabilità. Carlo Alberto Carnevale Maffè, economista dell'Università Bocconi di Milano, co-conduttore di Conti della Belva il sabato mattina su Radio 24. Carlo Alberto, ciao, buonasera. Buonasera a tutti, uno spettro s'aggira non solo per l'Europa ma per il mondo, dello spettro di Amazon. Di Amazon, esattamente. Come la leggi questa mossa? Perché non è la prima volta che si parla di accordi possibili tra Amazon e il mondo della farmaceutica. Le indiscrezioni sono diventate un po' più corpose negli ultimi giorni, c'è adesso questa nuova mossa che ha quasi l'aria un tentativo di all'aria di un tentativo di contrasto, senza poi esserlo fino in fondo. Dacci una tua idea. Che Amazon entri nel settore della distribuzione farmaceutica è scontato, si tratta di stabilire quando, non certamente il se. Certamente l'ingresso sarà nel settore grossista, non nel settore, diciamo, del dettaglio, specialmente in Europa il settore del dettaglio è così regolamentato che non riusciamo neanche a distribuire farmaci nei supermercati, figuriamoci se autorizzano Amazon. Però con la Cina d'America è interessante su due aspetti. Primo, perché conferma che il grande e ricco mercato della distribuzione farmaceutica viene investito da grandi rivoluzioni. Secondo, è che la mossa di CSV serve a fare integrazione verticale, è una cosa che non avremo mai in Europa, perché in Italia in particolare il monopolio è in mano allo Stato, lì invece sono le grandi assicurazioni che pagano, quindi è una mossa in cui un distributore farmaceutico si compra un'assicurazione, assicurandosi quindi un mercato solido e stabile, specialmente per i cronici, ed è vero che questo faciliterà la cura dei malati cronici. Quindi è un'integrazione verticale che certamente è una risposta anticipata alla minaccia di un ingresso di Amazon. È un mondo che l'Europa vedrà solo fra qualche anno con un'ulteriore liberalizzazione, ma che in America, che ha un modello sanitario completamente diverso dal nostro, si sta già chiaramente formando. Ovviamente, caro Alberto, ci sono una serie di timori a fronte dell'estensione progressiva dei famosi grandi colossi come Amazon e non solo, in settori che non sono tipicamente i loro, anche se potremmo dire che Amazon, essendo un retailer, alla fine è anche normale che entri in tutti i mercati nei quali gli è consentito di fare il retailer. Però è vero che la forza che riescono ad esprimere, in particolare Amazon con la sua capacità di distribuzione, no, è un po' preoccupante, no, per una certa fetta della popolazione. Preoccupante per chi è oggetto della concorrenza, non certamente per i consumatori, che con Amazon hanno vantaggi colossali di risparmio e di servizio. Devo dire, se c'è qualcuno che è preoccupato è l'offerta, non certamente la domanda. Anche nel settore farmaci, che è tuttora uno dei più inefficienti in termini di distribuzione, l'arrivo di Amazon abbassa brutalmente i costi della cura, e questo è particolarmente vero per le classi meno agiate, ed è particolarmente vero per il mercato dei farmaci generici. Tant'è vero che si vocifera che Amazon appunto stia pensando a comprarsi un'azienda di generici, così da poter offrire a costi assolutamente imbattibili trattamenti a bassissimo costo. Questo è un elemento, secondo me, che deve far riflettere. Certamente le autorità e il classico modello distributivo, quelli sono molto impauriti, ma noi consumatori, pur ovviamente chiedendo trasparenza e rigore in questo percorso, non possiamo che essere felici del fatto che i prezzi scendano. L'ultima questione ha a che fare appunto con le informazioni su noi stessi che noi trasmettiamo ad aziende come Amazon. Amazon sa che cosa cerchiamo, che cosa andiamo a cercare sul suo sito o sulla sua app, che cosa compriamo, quando lo compriamo, sa persino quando facciamo una scelta e torniamo indietro da quella scelta. Nel momento nel quale fosse in possesso anche delle informazioni sui farmaci che compriamo, entriamo in un campo estremamente delicato, no? Lo è, di fatto queste informazioni sono già disponibili, semplicemente la nostra farmacia non le usa. Il problema non sono i dati, è l'uso che se ne fa. Ancora una volta i dati ci sono già, solo che le nostre farmacie sono incapaci di organizzarli e di gestire un percorso di fidelizzazione e di profilazione del cliente. Amazon invece sì, certamente ne farà uso commerciale, perché non sono una charity. Se si impegnano, e questo ha il senso di richiedere l'intervento delle autorità, a usarli in maniera trasparente e a quindi eventualmente a restituirli, cosa che sarà obbligatoria per tutti gli attori europei a partire dall'anno prossimo, a restituirli all'utente che ne facesse richiesta o comunque a renderli disponibili, io non vedo un problema in principio. Certo, deve essere molto ben trasparente l'uso che si fa di questi dati, però ripeto, il fatto che Amazon possa consigliarci la miglior cura e il miglior modo di spendere i nostri soldi in farmaceutica in sé non è un principio negativo. Teniamo presente che la spesa per la cura della persona e la spesa privata per la salute è uno dei settori in più alta crescita al mondo, anche per l'invecchiamento della popolazione, per una grande attenzione che i consumatori stanno mettendo alla cura di se stessi. Quindi è un settore che ha bisogno di grandi interventi. Amazon intelligentemente vi si affaccia alla sua maniera, cioè alla maniera di un player dominante, enorme, di categoria. Enorme. Allora, grazie a Carlo Alberto Carnevale Maffè per essere stato con noi. Lo ritrovate ovviamente il sabato mattina nei Conti della Belva. Grazie Carlo Alberto, buonasera. Noi andiamo a sentire cosa succede sui mercati e poi, pardon, andiamo a sentire invece prima che cosa succede sulle strade e poi sui mercati. Focus Economia. Ed eccoci dunque a parlare di mercati. La chiusura è abbondantemente positiva, più 1,16% per il FTSE MIB, più 1,12% per il FTSE All Share, a Parigi più 1,36%, Francoforte più 1,5%, con l'America che si va rafforzando, quasi un punto percentuale di guadagno per il Dow Jones, Standard & Poor's 500 guadagna mezzo punto percentuale. CEO Condine, Radio Core sulle 24 ore, buonasera CEO. Ciao, buonasera a tutti. Qua ha un impatto ovviamente la riforma fiscale di Trump, della quale abbiamo parlato all'inizio, solo quello? Beh, direi che è un apporto importante, non è un caso che anche Wall Street oggi abbia aperto in forte rialzo, più 1% per il Dow Jones, insomma è un rialzo molto importante considerata la grandezza del listino americano, e sicuramente ne prova il fatto che poi per esempio a Piazza Affari abbiano strappato al rialzo tutti i titoli che sono molto esposti in termini di fatturato sugli Stati Uniti. Come per esempio? Come per esempio Buzzi, che ha chiuso a più 4,9%, ricordiamo che Buzzi fa il 50% del fatturato sugli Stati Uniti, va molto bene anche Luxottica che fa più 4,7%, bene anche Fiat Chrysler più 3,3%, qui a spingere il titolo, tuttavia ci sono anche diciamo le nuove ipotesi sullo spin-off, cioè sulla separazione attraverso la quotazione sia di Magneti Marelli sia di Comau. Sì, al centro di grandissime speculazioni quest'estate, poi la cosa è tornata un po' sotto traccia e appunto abbiamo le dichiarazioni dell'altro giorno di Sergio Marchionne che dice: lo spin-off di Magneti Marelli, l'idea è viva, mi piace, la vorrei fare, ma non abbiamo preso decisioni in consiglio, sarebbe importante darle indipendenza. Dice ancora Marchionne: anche Comau è capace di stare da sola. Tutto questo nel giorno della presentazione dell'accordo con la Sauber per il ritorno dell'Alfa Romeo in Formula 1. Complessivamente non male le banche, no? Sì, quando il listino di Milano va bene, comunque le banche diciamo sono tra i principali titoli poi a essere positivi. Oggi Mediolanum recupera oltre il 2%, anche Intesa San Paolo l'1,7%, Biper Banca più 2,7%, in tutti gli istituti che arrivano poi diciamo hanno avuto la volata lanciata anche dagli SREP della BCE, cioè come sappiamo la BCE settimana scorsa ha fornito le proprie valutazioni sulla solidità patrimoniale di queste banche al 30 settembre, tutte valutazioni che erano diciamo ampiamente positive. Poi sarà da vedere anche come si chiuderà l'anno per queste banche, perché poi le svalutazioni arrivano soprattutto a fine anno. Sì, sul listino principale segnaliamo anche UbiBanca che guadagna l'1,62%, sempre tra i bancari ovviamente, Unicredit che chiude con un rialzo inferiore dello 0,41%, il guadagno dello 0,41%, Prismian. Su Prismian invece c'è il tema dell'acquisizione di General Cable, che poi darà vita a un colosso mondiale appunto del settore, un'acquisizione che era diciamo allo studio, comunque c'erano varie ipotesi già da diversi mesi se non anni, alla fine l'operazione è arrivata veramente. General Cable è stata valorizzata a 3 miliardi di dollari. Come finanzierà Prismian questa cifra? La finanzierà sia con la sua cassa, sia con linee di credito esistenti e con nuovo debito, ma soprattutto c'è anche l'ipotesi di un aumento di capitale da massimo 500 milioni di euro. È sicuramente questa ipotesi quella che ha spinto oggi al ribasso il titolo in borsa, il titolo ha perso il 4%. Dobbiamo anche ricordare che Prismian stima di realizzare, grazie all'acquisizione di General Cable, per la nuova entità risparmi a regime di 150 milioni di euro. Comunque il ribasso di oggi in borsa è anche naturale, possiamo dire, spesso quando vengono annunciate queste operazioni si vedono dei ribassi il primo giorno, poi il mercato inizia a fare i calcoli sulle sinergie e risparmi e il titolo risale. Certo, sulle sinergie e risparmi, anche sul senso industriale dell'operazione. Nel frattempo ovviamente il mercato veramente vede solamente l'esborso di Prysmian per questa acquisizione. Bene i titoli del calcio oggi, lunedì? Sì, oggi sono andati bene sia la Juve che guadagna l'11,7%, sia la Roma che la Lazio che guadagnano oltre il 9%. Diciamo che per la Juve e per la Roma c'è grande attesa per domani, perché in Champions potrebbero qualificarsi per la fase successiva, qui ovviamente tutti i tifosi di entrambe toccano ferro. Per quanto riguarda la Lazio c'è il risultato positivo di ieri sera che fa aumentare le possibilità di una qualificazione alla futura Champions League. In questo quadro positivo CEO, abbiamo Prysmian che scende del 4,07, abbiamo detto perché Ferrari dello 0,84, c'è qualche motivo per il quale Leonardo scende anche oggi meno 0,71%? Ma no, non particolare, insomma Leonardo comunque è un titolo abbastanza, che dopo il profit warning resta abbastanza sotto i riflettori degli operatori, quindi ci sta che diciamo le incertezze sulla chiusura del bilancio 2017 pesino anche in una giornata positiva come questa. Sì, negativa tra i bancari anche BPM, scende di mezzo punto percentuale, giù Azimut dello 0,19 e tutti gli altri titoli sono positivi. Banca Generali più 0,21%, Campari più 0,23%, Saipem più 0,35%, Moncler più 0,39%, Unicredit abbiamo detto. Bene anche Eni che guadagna mezzo punto percentuale nonostante il calo del prezzo del greggio, Italgas più 0,6%, Settima Microelectronics più 0,6%, Recordati più 0,7%, così come Mediobanca e Poste Italiane più 0,8% insieme ad A2A e Atlantia che guadagna un punto percentuale. Grazie anche a CEO Condina di Radio Cori, Il Sole 24 Ore. Noi ci fermiamo, andiamo a sentire GR24 e ci ritroviamo subito dopo. Parleremo di trasporti e parleremo di Banca Etruria. Popolo dei già svegli, dei lavoratori, dei pensatori desti con il sorgere del sole e degli incolonnati vigili nel traffico delle metropoli. Sono Luca Telese. Vi aspetto con la rassegna stampa, le grandi opinioni, le interviste che fanno pensare. Non mancate. 24 mattino, tutti i giorni alle 6.30 su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Unica e Italiana Assicurazioni, società di Reale Group. Focus Economia. Ed eccoci di nuovo buonasera da Simone Spezia, questa è la seconda parte di Focus Economia, sarete ancora oggi con me, come dicevo, poi domani torna Sebastiano Barisoni, sempre 349-238-6666 per i vostri sms, adesso abbiamo qualche problema su WhatsApp e quindi non scriveteci là. Usate il buon vecchio sms. Oppure scriveteci se volete durante la diretta video che facciamo su Facebook, potete scriverci anche là, potete commentare anche sotto la diretta video, leggiamo anche quei messaggi. Oh, adesso ci occupiamo, prima di andare sul tema di Banca Etruria, sul quale arriveremo tra poco e ne avete sentito parlare anche in GR24, c'è una nuova ondata di polemiche, soprattutto politiche, ma che però nascono in realtà dall'inchiesta su Banca Etruria. Andiamo ad occuparci di autotrasporto. Un settore che impiega decine di migliaia di persone in tutta Italia, o meglio, centinaia di migliaia di persone in tutta Italia, E come sapete, a questo tema abbiamo tra l'altro due trasmissioni dedicate, una che va in onda il lunedì, Autotrasporti, alle 13.45 con Andrea Ferro, e poi un'altra il sabato firmata da Massimo De Donato, Container, un po' più dedicata al, complessivamente al mondo della logistica. E ce ne occupiamo perché ci sono un paio di notizie che hanno a che fare con questo settore, che lo coinvolgono, a partire dal rinnovo contrattuale del contratto di lavoro per gli addetti al settore della logistica e del trasporto merci, che c'è stato nel fine settimana, un accordo che riguarda 700.000 persone complessivamente. È stato revocato lo sciopero proclamato per l'11 e il 12 dicembre perché i sindacati sono dichiarati soddisfatti dell'esito delle trattative, un accordo che prevede un aumento medio di 108 euro da riparametrarsi più un pagamento una tantum di 300 euro. Pasquale Russo, segretario di UNATRAS, l'Unione Nazionale delle Associazioni dell'Autotrasporto Merci. Russo, buonasera, benvenuto ai nostri microfoni. Grazie, buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, è un settore che ovviamente vive una fase di rinnovamento e una fase di estrema problematicità, ne abbiamo discusso spesso anche da questi microfoni, e però inizierei a ragionare un po' su come intendete affrontare con questo contratto di lavoro quello che è arrivato negli anni passati, ossia il famoso problema del quale tante volte abbiamo discusso, del dumping sociale, e se c'è qualche elemento che riguarda questo tema all'interno del contratto, e più in generale come cambiano queste figure professionali delle quali vi avvalete, che noi trattiamo come il solito vecchio camionista, mentre invece si sta modificando radicalmente anche questa. Sì, dice bene, la figura del conducente è una figura in fortissima evoluzione e abbiamo cercato con questo contratto molto complicato, ma che poi ha trovato una sintesi anche grazie al lavoro delle organizzazioni sindacali. Dicevamo, abbiamo cercato con questo contratto di dare alcune risposte, per quanto possibile, ai fenomeni che accennava lei. Prima di tutto, quando parliamo di dumping, abbiamo provato ad immaginare una serie di incentivi di tipo contrattuali per quelle imprese che dovessero decidere di riportare nel territorio italiano la propria flotta o una parte di essa, prevedendo la possibilità. Sì, mi scusi, forse giusto per chiarire agli ascoltatori, perché forse non l'abbiamo espresso nella maniera corretta, abbiamo detto genericamente dumping sociale perché poi di questi temi ci occupiamo spesso, e però giusto per chiarire agli ascoltatori, ci si riferisce a quei meccanismi secondo i quali o delle aziende in particolare dall'est Europa, dove i contratti di lavoro sono ovviamente, gli autisti vengono pagati molto meno, oppure aziende magari italiane che vanno all'estero e mettono la sede all'estero facendo viaggiare i camion anche in Italia, mettono in atto un meccanismo per il quale si mettono in difficoltà tanto i lavoratori italiani di questo settore quanto le aziende che decidono di rimanere qua. Prego, era solo una spiegazione per gli ascoltatori. Prego. No, assolutamente opportuna, direi. Ecco, dicevamo, il punto è che molte aziende, come diceva lei, hanno deciso di spostare legittimamente, che è un fattore assolutamente legale, quindi non è un fenomeno illegale, ma hanno deciso di spostare la propria impresa in altre parti d'Europa e hanno deciso di praticare in particolare il trasporto internazionale, che è quello che si fa ad esempio tra una città italiana, Milano, e una città estera, Parigi, attraverso le proprie sedi, le sedi estere, questo proprio per contenere i costi. Ora, ripeto, per quanto è possibile fare all'interno di un contratto, abbiamo previsto che chi decide di riportare all'interno del territorio nazionale la propria sede può avere alcuni incentivi di natura contrattuali legati soprattutto alla possibilità di assumere con costi più contenuti, ovviamente questo per un periodo limitato di tempo e soprattutto per soltanto per quelle imprese che dimostrino poi di aver effettivamente riportato del lavoro in Italia. Così come dicevamo prima, la necessità di prendere atto che la figura del conducente è una figura nuova, e quindi c'è la necessità anche di coinvolgere giovani per avviarli all'attività di conducente professionale. Per inciso voglio ricordare che in questo momento c'è una grossissima carenza di conducenti professionali. Noi come organizzazione abbiamo stimato che da qui a 5 anni avremo bisogno di almeno 3.000 conducenti professionali che mancano all'appello, e quindi per in qualche modo invogliare anche l'impiego di conducenti giovani è stato previsto anche qui che per i nuovi assunti, per i neopatentati, per quelli che hanno la patente per guidare i mezzi pesanti da non più di 3 anni, si possa arrivare ad un stipendio, di un salario d'ingresso che fosse più contenuto. Ovviamente abbiamo riconosciuto quella che era giusto riconoscere in termini di aumento, che lei ha citato, i 108 euro, che sono ovviamente un fisiologico aumento degli indici contrattuali, e soprattutto abbiamo definito un quadro di relazioni industriali e sindacali che in qualche modo possano aiutare uno sviluppo e una relazione tra imprese e dipendenti che possa cogliere anche le nuove sfide che stanno arrivando un po' da tutta Europa. Sì, a proposito di sfide che stanno arrivando, in questo caso non solo dall'Europa ma un po' da tutto il mondo, ho visto che ancora da definire in realtà nello specifico c'è l'introduzione della figura professionale del rider. Ora, quando noi parliamo di rider siamo abituati a pensare ovviamente a quelli che un tempo si chiamavano i fattorini, che sono quelli che adesso ci portano in bici il cibo a casa nelle nostre città, perché spesso se ne è parlato in questi termini. Che cosa intendete voi, che cosa rappresenta e se ha a che fare con questo nuovo mondo del lavoro che stiamo affrontando? Ha assolutamente a che fare con questo nuovo mondo che stiamo affrontando, ed è relativo soprattutto alla distribuzione nei centri urbani delle merci. È evidente che si sta sempre più arrivando ad una organizzazione della distribuzione anche con queste figure, cioè con chi ha la bicicletta, che se volete è un'evoluzione un po' per fare un esempio un po' che ricorderemo tutti, del vecchio Pony Express, soltanto che qui abbiamo una figura un po' diversa, perché non è impiegata sempre, e soprattutto non è, come lo era prima un po' il Pony Express, tra virgolette un libero professionista, ma è sostanzialmente una persona che lavora nell'ambito di un'azienda organizzata. E c'è sempre più l'esigenza di disciplinare queste nuove figure. Immaginate con quello che succede con l'e-commerce, quante sono le consegne che vengono, e sempre più quante sono le consegne effettuate nell'ambito di piccoli spostamenti da queste figure che sono rider. Quindi c'è l'esigenza, c'è la necessità di individuare e disciplinare anche queste nuove figure che, ripeto, sono legate soprattutto allo sviluppo. Su questo non avete ancora dato una definizione precisa di come tutelare queste figure, mi sembra di aver capito, Russo, no? Perché non è facile. No, ma le dico perché ne abbiamo parlato diffusamente anche la settimana scorsa, tra l'altro, di questo tema, anzi due settimane, venerdì di 2 settimane fa sostanzialmente, esattamente di questo tema, di quanto sia difficile definire queste figure. È anche difficile capire quello che diceva lei, no? Cioè, sono effettivamente dipendenti di una stabile organizzazione, sono dei liberi professionisti, che cosa effettivamente sono? La rivorrei su questo punto, ma prima devo sentire cosa succede sulle strade. Via. De Giro, il trading online a commissioni basse senza precedenti. Visita degiro.it. Vi presenta Focus Economia. Ed eccoci di nuovo dunque con Pasquale Russo, segretario di UNATRAS, l'Unione Nazionale dell'Associazione dell'Autotrasporto Merci. Dunque, Russo, non avete, si diceva, non siete ancora riusciti, ma è anche abbastanza normale, a dare una definizione precisa, no, di questo di queste figure che girano nelle nostre città con vari mezzi di trasporto. Sì, perché sono figure molto spesso, ad esempio, studenti universitari che decidono per un pezzo della loro settimana, per un pezzo della propria giornata, di fare questo mestiere qua. E quindi come si fa a individuare un profilo contrattuale che, le dico, spesso non vuole nemmeno essere inquadrato in questa misura qua dal lavoratore che esercita questo tipo di attività? Non è molto semplice, perché è un'attività che non è strutturata ed organizzata e non è facilmente codificabile, perché, ripeto, le può trovare, come avviene in tutte le grandi città europee, trovare lo studente in bici che fa le consegne del pacco, il pacchettino legato soprattutto, ripeto, alla distribuzione dell'e-commerce. Quindi non è semplice per la figura professionale che ci troviamo di fronte, non è una figura professionale classica e soprattutto non è una figura professionale inquadrata a tempo pieno, perché è lo stesso rider che non ha voglia di essere inquadrato a tempo pieno, mettiamola così. Questo è un grande tema che andrà affrontato anche successivamente. Io intanto la porto sull'altro elemento che poi di cronaca di queste ore, che tra l'altro si incrocia un po' con le cose che ci siamo detti, ossia l'incontro con l'esecutivo che avete avuto al Ministero delle Infrastrutture mercoledì scorso per fare il punto proprio sui problemi del settore. E tra le altre cose, il governo si è impegnato a garantire il ripristino dei 50 milioni di euro che inizialmente erano stati sottratti all'autotrasporto per tutta una serie di elementi. In aggiunta si è parlato anche di quello che si diceva prima, ossia il tema del dumping sociale da una parte e poi questo cosiddetto emendamento Amazon, così chiamato, che prevedeva la liberalizzazione incontrollata dei trasporti effettuati con veicoli leggeri. Quindi, come dire, tutto si tiene, il vostro contratto nazionale e anche l'incontro che avete avuto col governo. Come è andato l'incontro col governo? L'incontro col governo direi che è andato benino, mettiamo così. Nel senso che con soddisfazione abbiamo preso atto della restituzione di 50 milioni di euro a favore delle imprese del trasporto merci italiane. Sul fronte europeo abbiamo però da registrare alcune cose che ci preoccupano. In tutta Europa i paesi della vecchia Europa, Germania, Francia, Belgio, Danimarca, Norvegia, hanno già messo in campo delle politiche molto chiare per la difesa di quello che secondo questi paesi l'autotrasporto è, cioè un asset strategico per lo sviluppo e la crescita dell'industria nazionale, e sono state già assunte delle misure molto molto definite e devo dire anche molto efficaci. In questi mesi si sta discutendo a livello europeo del pacchetto mobilità, che è un pacchetto di norme molto importante anche sul fronte del dumping sociale, perché proprio all'interno di questo pacchetto normativo che dovrebbe trovare la disciplina a livello comunitaria dei fenomeni di distacco e soprattutto di fenomeni che dovrebbero essere regolamentati, che comportano appunto il dumping sociale. Su questo aspetto noi abbiamo chiesto con forza che il governo sia coerente con il documento che è stato firmato dal ministro Del Rio, che è la cosiddetta Road Alliance, che è proprio un documento teso a imporre alcuni principi a livello comunitario. Il più importante di questo, relativamente al dumping, è il principio per cui un lavoratore che lavora in Italia deve ottenere la stessa paga di lavoratore italiano. Questo è un principio che nelle norme sulla sicurezza sociale è stato proprio recentemente recepito dalla legislazione comunitaria. Peccato che in queste norme di recepimento è stato escluso l'autotrasporto. Allora noi abbiamo chiesto che all'interno del pacchetto mobilità si faccia pressione affinché venga regolamentato il fenomeno del dumping, perché sennò la conseguenza sarà uno e molto semplice: che l'autotrasporto in Italia non esisterà più, che perderemo un asset molto importante e che la merce, anziché viaggiare su gomma italiana, viaggerà su gomma straniera. Noi riteniamo che questo sarebbe una perdita fondamentale per un settore che genera posti di lavoro, PIL, ed è soprattutto strategico anche, lo voglio ricordare, per la nostra finanza pubblica e per l'industria automobilistica italiana, perché in Italia si producono ancora tanti camion, e l'indotto che si genera è molto importante. Quindi noi riteniamo che nell'interesse delle imprese di trasporto, ma nell'interesse del paese, questo è un asset che il governo deve preservare e deve agire, secondo lei, in quella direzione. Io la ringrazio, grazie a Pasquale Russo, segretario di UNATRAS, Unione Nazionale delle Associazioni dell'Autotrasporto Merci. A chiudere andiamo a parlare di Etruria. E restiamo fuori dal mega polemicone galattico politico, perché, per carità, però diciamo, è anche un pezzo di questa storia che andiamo a raccontare. È successo che l'altro giorno il procuratore di Arezzo Roberto Rossi si è presentato davanti alla commissione d'inchiesta sulle banche e stando a quanto riferito, a quanto circolato su alcuni quotidiani, Sara Monaci del Sole 24 Ore, buonasera, buonasera. Non avrebbe detto tutto quello che doveva dire, ma è così davvero? Ma non lo so, no. Io mi sono fatta un'idea un po' differente, diciamo che ci sono state delle domande a cui lui ha risposto. Oggi ha inviato una lettera al presidente della commissione, a Casini, e ha spiegato qual è la sua posizione, ovvero ci sono dei rinvii a giudizio, delle richieste di rinvio a giudizio, e tra questi non c'è Boschi per il capitolo della bancarotta fraudolenta. Poi c'è un'altra indagine in corso, quella di falso in prospetto. A questo punto, quando se ne è parlato in commissione, l'audizione è stata secretata perché ci sono delle udienze, delle indagini preliminari. In quell'occasione lui spiega: non è stato chiesto in modo esplicito quale fosse la posizione di Boschi, e lui ha parlato dell'inchiesta. Che cosa è successo? Oggi parliamo di nuovo della posizione di Boschi, e di conseguenza l'attacco a Rossi è, come dire, quasi scontato. Io credo che in qualsiasi posizione si trovi sarà comunque attaccato, perché è un'inchiesta che è oggettivamente inquinata politicamente dalla presenza di Boschi, al di là della sua oggettiva responsabilità, certo, che ne ha sicuramente, ma come tutti gli altri membri del CDA, quindi non dovrà avere sconti, ma nemmeno poi delle aggressioni maggiorate per il fatto di essere padre della ex ministra. Io credo che in questo ci voglia equilibrio. Qualora il procuratore si trovasse a dire che Boschi ha commesso dei gravi reati, lo attaccheranno da parte del PD. Qualora invece dicesse che non c'è la presenza di Boschi, si troverebbe a essere attaccato da chi dice che sta salvaguardando. Sì, dove qua la colpa del procuratore sembrerebbe essere solamente quella di non aver detto esplicitamente che Pierluigi Boschi è indagato per questo falso in prospetto. Probabilmente esiste. Allora, precisiamo che ci sono in corso delle indagini preliminari, quindi parlare in modo così esplicito potrebbe essere difficile. È vero che anche però una commissione d'inchiesta che ha poteri comunque di indagine, quindi può darsi che dovesse avere un'attenzione in più. Bisogna capire se si tratta di una leggerezza oppure se si tratta di una colpa. Il punto è anche questo. Poi io credo che bisogna dirselo anche in modo piuttosto franco. Il procuratore l'altro giorno ha parlato delle possibili omissioni e delle lacune che ci sono state da parte della vigilanza, di Banca Italia e di Consob. Questo ha attirato da una parte delle critiche, dall'altra anche qui delle posizioni favorevoli. Di conseguenza, oggi parlare di Boschi è un modo per sottrarsi, secondo me, a questo argomento che è spinoso, e qualcuno sottolinea, magari anche giustamente dal punto di vista suo, che bisognerebbe parlare più degli amministratori, tra cui Boschi, e meno della vigilanza, perché un conto sono i ladri, tra virgolette, un conto sono le guardie. Se le guardie hanno agito male, hanno sicuramente una responsabilità, ma i ladri rimangono. Quindi diciamo che all'interno di questi punti di vista, che sono molto politici, perché la commissione d'inchiesta, ahimè, ha all'interno dei politici, per quanto poi si voglia dire, ognuno poi ha la sua posizione e avrà, lo ricordo, una campagna elettorale da affrontare. Quindi io credo che questa inchiesta purtroppo in queste ore sconti proprio di questo tipo di inquinamento, diciamo. Una sorta di inquinamento politico. Intendiamoci, lo dico agli ascoltatori di una parte o dell'altra, si intende inquinamento politico non perché uno attacchi l'altro, l'altro si difende, eccetera eccetera. Si dice semplicemente che sarebbe bello ragionare sui fatti, sull'inchiesta, punto e basta, e senza che questo rientri in uno scontro politico, anche se forse è inevitabile. Grazie a Sara Monaci del Sole 24 Ore, a Mauro De Corno e Barbara Bianchi in assistenza in redazione, Valeria Bernardi in regia, a tutti voi per l'ascolto, le mie scuse a Giuseppe Cruciani e David Parenzo per il ritardo. Una buona serata a tutti, ci risentiamo domani alle 13 con Effetto Giorno. Radio 24, libera la voglia di fare.